Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Comitato Tecnico Scientifico sta analizzando tutte le varie opzioni, sta anche valutando l'impatto delle diverse misure che potrebbero avere, tenendo conto che il faro guida per noi è capire, fare in modo che il famoso R con 0, l'R con T, rimanga sotto l'1. Se dovesse salire sopra l'1 avremmo una ripartenza della curva epidemica, cosa che vogliamo evitare. Oggi l'ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, che fa parte del Comitato Tecnico Scientifico, l'organismo consulente del governo, rispondendo durante la conferenza stampa della Protezione Civile, sapete quella che quotidianamente dà un po' il bollettino dei numeri del coronavirus in Italia, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano cosa ne pensa della fase 2 e soprattutto dell'annunciata ripartenza, prima della Lombardia e poi di varie altre regioni che oggi si sono accodate, allineate, ha detto: per noi il faro è l'indice R con 0, cioè l'indice di contagiosità, che dice deve arrivare sotto l'1, cioè che ogni persona infetta deve infettarne meno di una persona. Ecco, questo è un po', diciamo, il parametro. E quindi, insomma, diciamo che il Comitato Tecnico Scientifico al momento non è molto propenso alle riaperture, anche se appunto diverse regioni premono, dalla Lombardia, poi il Veneto e il Piemonte e anche la Sicilia. Ne parleremo, e così come parleremo di una cosa molto importante, di un vaccino che è stato prodotto in un laboratorio di alta tecnologia, ricerca e biologia di Pomezia e che sarà testato in Inghilterra su 550 volontari a fine aprile. Parleremo col direttore scientifico di questo laboratorio di Pomezia, una cosa molto importante, speriamo, insomma, auspichiamo che ci dia delle buone speranze. Poi le applicazioni, le app che dovrebbero tracciare i contagi e gli spostamenti delle persone, sono arrivate delle indicazioni molto precise da parte della Commissione Europea ai vari stati, dicendo soprattutto che deve essere garantito l'anonimato e poi non ci deve essere la geolocalizzazione. Adesso però capiremo come è possibile tracciare senza geolocalizzare. E poi lo sapete, è morto il grande scrittore Luis Sepúlveda, cercheremo di tracciarne un profilo. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, lo sapete ormai, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, per voi lì giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp li potete inviare sempre allo stesso numero, che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Quindi tante cose come sempre da raccontarvi, da chiarire, da approfondire insieme agli ospiti, ma prima di tutto la sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, sono ancora tanti i malati, complessivamente 106.607, ma sono 3.000 in meno nelle terapie intensive e nel mondo sono stati superati 140.000 morti. Le annunciate riaperture dopo la richiesta della Lombardia al governo di ripartire il 4 maggio, anche Veneto, Piemonte e Sicilia premono per ripartire a inizio del mese. Le morti nelle residenze per anziani, almeno 40 inchieste aperte in tutta Italia, mortalità alta in tutta Europa. Stati Uniti, sono 22 milioni nuovi disoccupati in un mese, in California il picco della crisi. Vaccino dal laboratorio di Pomezia si sperimenterà a fine aprile su 550 volontari in Inghilterra. Effetto Notte, il direttore scientifico del laboratorio sarà ospite. Terremoto, 3 scosse in 24 ore nel Piacentino, questa mattina la più forte è stata di magnitudo 4.2. Addio a Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno, autore della Gabbianella e il Gatto, è morto in Spagna per Covid-19 a 70 anni. Partiamo come sempre dai dati del coronavirus in Italia, quotidianamente aggiornati, lo sapete, in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono complessivamente 106.607 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.189 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.127. Sono 22.170 le vittime da coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 525, quindi altri 525 morti, e sono invece 40.164 le persone guarite da coronavirus, 2.072 più di ieri. Cala intanto la pressione sulle strutture sanitarie, mentre i tamponi arrivano a 61.000 nella sola giornata di oggi. Sono oltre 106.000 i malati in Italia, dice la Protezione Civile, con un incremento simile a quello del giorno prima, un po' più di 1.100, ma i guariti sono il doppio. La pressione sulle strutture sanitarie si riduce e scendono sia i ricoverati in terapia intensiva che in reparto, con il calo giornaliero più netto da inizio epidemia. Ed è record anche nel numero dei tamponi, quasi 61.000 quelli effettuati, il numero più alto di sempre. ma ci sono anche 525 deceduti nelle ultime 24 ore, il che fa salire a 22.170 il numero delle vittime accertate per Covid-19. L'andamento nazionale si riflette anche sulla Lombardia, dove ci sono 42 pazienti in meno nelle terapie intensive e più di 1.400 dimessi. Ma si registrano 231 morti. In Piemonte il governatore Cirio conferma poi la decrescita di ricoverati e pazienti gravi, ma sottolinea che la curva dei contagi rallenta meno che altrove e segna un più 879. Zero nuovi casi invece in Molise e solo 3 in Sardegna. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, come vi dicevo, sono 4 le regioni decise a riaprire il 4 maggio. Fontana propone, il presidente della regione Lombardia, orari scaglionati e regole chiare da seguire per tutti. Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia vogliono riaprire il 4 maggio, il giorno dopo la scadenza della quarantena fissata dal governo. Si potrebbe scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5, ipotizza il governatore lombardo Attilio Fontana, con orari di inizio diversi, spiega, per evitare l'affollamento dei mezzi pubblici e regole chiare da seguire. Stiamo progettando la nuova normalità nel segno delle 4D: distanza tra le persone, dispositivi obbligatori, digitalizzazione con smart working obbligatorio per chi può fare e diagnosi. Il sindaco di Milano Beppe Sala scrive a Fontana e conferma la disponibilità a collaborare per la ripartenza, mentre in Veneto il governatore Luca Zaia si dice favorevole ad aprire tutto anche prima del 4 maggio se i presupposti sanitari e scientifici lo consentiranno e annuncia di lavorare a un piano specifico per far ripartire il turismo in sicurezza in vista dell'estate. Il Piemonte è pronto poi a testare con alcune aziende le linee guida per la ripartenza messe a punto da Politecnico di Torino e Università, ma i sindacati frenano, non è il momento delle fughe in avanti o dei protagonismi, dicono CGIL, CISL e UIL. Sulla fase 2, sottolineano, serve una regia nazionale su sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Occorrono linee guida omogenee e condivise per non pregiudicare gli sforzi fatti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco torneremo a parlare di queste annunciate ripartenze. Adesso passiamo alla presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, che combattiva a difesa dell'euro, alla riunione primaverile del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, mentre proseguono i negoziati in vista del vertice europeo del 23 aprile, chiamato a varare il famoso Fondo Comunitario per la Ripresa. Impegnati a fare tutto il necessario per aiutare l'eurozona a uscire dalla crisi, la presidente BCE Lagarde ribadisce il suo whatever it takes nel mezzo di una recessione pandemica globale. Dopo una partenza incerta, Francoforte appare l'unica istituzione fin qui più decisa ed efficace nel difendere l'economia della moneta unica. Per la Lagarde, la BCE è pronta ad aumentare le dimensioni dei suoi programmi di acquisti titoli e ad aggiustarne la composizione nella misura necessaria e per tutto il tempo necessario, nonché a valutare ogni azione e ogni contingenza. La presidente BCE ha invitato infine la comunità internazionale a fare sforzi ulteriori. Questo mentre la presidente della Commissione von der Leyen, parlando all'Europarlamento, ha ribadito che considera il prossimo bilancio settennale europeo la guida della ripresa e ha anticipato: sarà diverso da quanto immaginato, ne useremo la potenza per fare leva su investimenti massicci. La von der Leyen rivendica gli oltre 3.000 miliardi mobilitati a livello nazionale ed europeo finora, ma riconosce che non sono abbastanza. Infine, il momento delle scuse. Too many. We're not there on time when Italy needed a helping hand. È vero che molti erano assenti quando l'Italia ha avuto bisogno di aiuto all'inizio di questa pandemia. L'Europa deve presentare una scusa sentita all'Italia e lo fa, ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il prodotto interno lordo dell'Italia, il PIL, calerà del 9,9% nel corso del 2020 per poi far registrare una solida ripresa al ritmo del 6,4% il prossimo anno e del 3,2% nel 2022. Queste sono le nuove stime pubblicate oggi dall'agenzia di rating Standard & Poor's, che per l'eurozona prevede un calo del 7,3% quest'anno con una ripresa al ritmo di 5,6% nel 2020 e 3,7% nel 2021. Siamo all'estero, il numero totale di morti per coronavirus nel mondo ha raggiunto quota 140.773 secondo il bilancio tracciato dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di vittime, oltre 33.000, seguite dall'Italia che ha superato le 22.000 e dalla Spagna con oltre 19.000. Nel mondo il numero totale di casi ha raggiunto almeno i 2.101.000. Il vice di Boris Johnson, del primo ministro Boris Johnson, Dominic Raab, ha appena annunciato che in Gran Bretagna le attuali misure restrittive saranno estese di altre 3 settimane. Oggi 861 morti portano il totale a quasi 14.000 in Gran Bretagna. L'epidemia si starebbe assestando, mollare ora, dice Raab, sarebbe rischioso. Con quasi 640.000 casi e 31.000 vittime, gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito dal coronavirus. Lo stato di New York ha prorogato il lockdown fino al 15 maggio. Gli effetti della pandemia si fanno sentire in modo pesante sull'economia americana. Nelle ultime 4 settimane le richieste per i sussidi di disoccupazione sono state oltre 22 milioni, mentre il fondo da 350 miliardi di dollari per i prestiti alle piccole e medie imprese si è già esaurito. L'Europa resta invece il continente dove il Covid-19 ha ucciso più persone, oltre 90.000. La Spagna ha superato la soglia dei 19.000 morti, mentre in Gran Bretagna il lockdown è stato prolungato di 3 settimane, ma ci sono anche paesi come l'Austria, la Danimarca e la Germania che hanno già iniziato ad allentare le misure di contenimento. La cancelliera tedesca Merkel oggi ha anche espresso pieno sostegno all'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale il presidente americano Trump ha deciso invece di bloccare i fondi, accusandola di aver insabbiato l'emergenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito invece delle case di riposo, sono oltre 40 le inchieste penali in corso in tutta Italia sulla gestione dell'emergenza Covid-19, appunto nelle strutture per anziani. Un dato che riguarda solo le indagini delegate ai NAS dei Carabinieri. Il loro comandante generale Adelmo Lusi, al microfono di Alessandro Rona, descrive sottovalutazioni e carenze nella gestione delle emergenze, soprattutto nelle prime settimane, e ammette che non sempre c'è stata la dovuta trasparenza con i parenti. In questi ultimi 40 giorni abbiamo incrementato il numero dei controlli. E i dati dicono che le inadempienze hanno riguardato 104 casi su 601. Sì, diciamo che siamo intorno tra il 17 e il 20% hanno presentato delle criticità. Sì. In una località dell'Italia centrale stiamo investigando alcune circostanze in cui probabilmente i responsabili della struttura hanno sottovalutato la situazione, che poi magari ha avuto delle conseguenze ulteriori. Io penso che nelle prime giornate probabilmente ancora c'era una mancata sensazione di gravità del fenomeno, che ha un po' coinvolto tutti, e solo via via che passavano i giorni ci si è resi conto della pericolosità di questo virus e soprattutto della velocità di trasmissione. Quindi non mi sento di imputare tutto quella mancata informazione, che comunque ritengo, se fosse stata migliore, le cose sarebbero andate anche meglio. E dall'inizio dell'epidemia sono 120 medici morti, spesso perché in prima linea, senza strumenti idonei di protezione, come abbiamo raccontato tante volte, oltre 30 gli infermieri deceduti, migliaia i contagiati, molti di loro tra l'altro sono operativi nelle case, vanno direttamente dai cittadini. E a proposito di chi sta in casa, tutti naturalmente, c'è qualcuno che sta anche peggio, a parte i malati. Il Palazzo Chigi rilancia il numero contro la violenza sulle donne e con una clip: il Covid-19 ci costringe a stare in casa, ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura, potete chiedere aiuto. Le case, rifugio, i centri antiviolenza sono aperti, dice questa clip di Palazzo Chigi. Chiama il 1522 oppure scarica l'app per chattare in sicurezza con un'operatrice, hashtag libera puoi. Questo lo scrive in un tweet Palazzo Chigi. E parliamo adesso del cambio al vertice di Confindustria per il mandato 2020-2024. Il Consiglio Generale di Confindustria ha scelto Carlo Bonomi come presidente designato a succedere a Vincenzo Boccia per il mandato 2020-2024. Bonomi, numero uno di Assolombarda dal giugno del 2017, ha ottenuto la vittoria su Licia Mattioli. Non ci sono state schede bianche o astenuti, hanno votato tutti e 183 aventi diritto. Bonomi ha ottenuto 123 preferenze contro 60. «Sono onorato, ma non è tempo di gioire», ha detto il futuro presidente di Confindustria riferendosi alla situazione dell'economia italiana. Ora si apre una nuova voragine, eravamo già in stagnazione, il colpo per l'Italia sarà peggiore che per i nostri competitor, ha continuato Bonomi, sollecitando le riaperture delle aziende in sicurezza e facendo un appello all'impegno di tutti, a cominciare dalle imprese, per cambiare l'Italia. L'elezione definitiva ci sarà il 20 maggio all'assemblea privata di Confindustria. Nicoletta Picchio, Radio 24, Il Sole 24 ore. E si parla anche di vaccino contro il coronavirus. Dal laboratorio di Pomezia si sperimenterà a fine aprile su 550 volontari in Inghilterra. Effetto notte, ne parleremo col direttore scientifico del laboratorio IRBM tra poco. La cronaca: scossa di terremoto nel Piacentino, distintamente avvertita dalla popolazione, la terza in 24 ore. La terra ha tremato alle 11.42 con epicentro a Cerignale, una magnitudo di 4.2, poi di magnitudo 2.0. Già ieri sera, intorno alle 22, c'era stata un'altra scossa in provincia di magnitudo 3.5 a Ferriere. Al momento non ci sono segnalazioni di danni, per fortuna. E poi parliamo anche di app, le app che dovrebbero servire, appena parte questa fase 2, a tracciare i contagi, a tracciare gli spostamenti. Una stima accurata, dice la Commissione Europea, delle vicinanze tra dispositivi mobili tramite segnali Bluetooth, senza però l'uso della geolocalizzazione. Uno dei principi, questi cardine, pubblicati dalla Commissione Europea ed elaborati in collaborazione con i governi per lo sviluppo delle app di tracciamento della diffusione del virus. L'installazione delle app deve essere volontaria, sottolinea Bruxelles, ribadendo che i dati devono essere trasmessi in forma anonima e aggregata. Ne parleremo col presidente dell'Associazione Nazionale per la Sicurezza Informatica. E poi l'addio allo scrittore Luis Sepúlveda, è morto per coronavirus a Oviedo in Spagna, aveva 70 anni l'autore cileno, che era stato ricoverato a fine febbraio dopo aver contratto il virus in occasione di un festival della letteratura in Portogallo. Lo scrittore risiedeva a Gion, nelle Asturie, dal 1997. Per chiudere, nei giorni del confinamento, gli italiani, voi italiani, continuate a informarvi e intrattenervi con la radio. Infatti, eccovi qui a Effetto Notte, lo dicono i dati di uno studio presentato questo pomeriggio. Si chiama L'ascolto della radio ai tempi del Covid-19 ed è stata commissionata a GFK da TER, Tavolo Editori Radio, che racchiude la quasi totalità delle emittenti, la ricerca che vuole capire come sono cambiate le nostre abitudini. Anche se il 67% della popolazione utilizza meno l'auto, l'impatto sugli ascolti è molto contenuto, un calo del 17%, pressoché compensato dall'aumento del tempo medio di ascolto, cresciuto dell'11%. La radio si adatta non solo ai ritmi e ai luoghi diversi, ma anche alle modalità di fruizione. Se necessariamente si usa meno l'autoradio, cresce l'ascolto della classica radio FM affiancata dagli apparecchi DAB+, ma anche la TV, lo smartphone e il PC. Quando ascoltiamo la radio? Mentre si lavora da casa, mentre si fa ginnastica, nei momenti di relax. Le aree che maggiormente migliorano sono proprio quelle rassicuranti della vicinanza e del comfort, come antidoto alla solitudine forzata, e contemporaneamente quelle che agiscono sullo stato di benessere, sull'umore, sull'emozione. Radio fondamentale anche per l'informazione. Cresce la voglia di interazione. Insomma, la radio è sempre accanto agli italiani. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E grazie quindi di essere sempre accanto alla radio, e soprattutto la radio che ringrazia, io Roberto Giordano ringrazio voi di essere sempre in ascolto di Radio 24, in particolare di Effetto Notte a quest'ora. Quindi tra poco, come sempre, per informarvi, per chiarire una serie di temi importanti, ci saranno gli ospiti. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. Per esempio chiede un'ascoltatrice, ascoltatore, come mai le prove del vaccino Covid sono in Inghilterra. Poi lo chiederemo proprio al direttore scientifico del laboratorio di Pomezia. Torno ratta come la folgore. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti sempre ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata, dei vostri commenti attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte o il 349-238-6666, che è sempre il numero per SMS e WhatsApp, e poi i vari ospiti con i quali cerchiamo di affrontare diversi argomenti, naturalmente per lo più sempre legati a questo virus che ingombra, invade completamente le nostre vite da diverso tempo. Intanto avete sentito prima il servizio di chiusura appunto sui dati relativi alla radio e il fatto che voi continuate ad amare la radio, gli italiani e le italiane continuano ad ascoltare la radio nonostante appunto si stia in casa. Si pensa in genere che la radio sia ascoltata in macchina, non è così, questo ci fa e mi fa infinitamente piacere. E tra l'altro oggi pensate che è la giornata mondiale in cui si celebra la voce, quindi la radio è voce, la voce è radio, è diciamo che un bel connubio. Allora, andando sui temi decisamente importanti, ieri nel tardo pomeriggio, e ne abbiamo parlato subito qui a Fettonote, immediatamente sul pezzo, è arrivato inaspettato l'annuncio da parte della regione Lombardia, del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, della richiesta al governo di poter cominciare a riaprire le attività produttive, quindi a riaprirsi insomma alla vita tra virgolette più o meno normale, che normale non lo sarà a lungo, a partire dal 4 maggio. Inaspettata questa richiesta al di là delle decisioni governative, perché sappiamo che la Lombardia non solo è la regione più colpita purtroppo dal coronavirus in termini di contagi e di morti, ma anche perché forse la regione con le misure più restrittive, pareva fino a qualche giorno fa che ne volesse chiedere di ancora più rigorose. E c'è stata subito ieri una certa sorpresa e irritazione a Palazzo Chigi, tant'è che insomma non è stato detto granché, se non che c'era una certa sorpresa. Subito però c'è stata la reazione contrariata del vice ministro dello sviluppo economico Buffagni del Movimento 5 Stelle. Intanto saluto il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Ecco, Fontana oggi ha spiegato un po' la sua idea di ripartenza e farei sentire qualche passaggio. Io mi auguro che veramente si possa ricominciare, quindi nei prossimi giorni, 4 di maggio come è stato detto, data di fine, di termine dei precedenti provvedimenti, si possa ricominciare una ripresa graduale. Cerchiamo di capire, noi non abbiamo nessuna intenzione di ripartire come se nulla fosse successo, assolutamente. Poi ha detto abbiamo fin lì 19 giorni per pianificare il tutto, quindi c'è del tempo, e poi ha detto in ogni caso noi vogliamo una ripresa in sicurezza con le famose 4D. Abbiamo posto alla base di questa ripresa le 4D, la distanza, i dispositivi, la digitalizzazione e la diagnosi. Sono 4 elementi assolutamente fondamentali per dire che noi pretenderemo che comunque qualunque tipo di ripresa abbia come presupposto necessario e assolutamente ineliminabile quello della garanzia della salute dei nostri cittadini. Senza la garanzia della salute dei nostri cittadini non saremo disposti a fare nulla. Questo è fondamentale, perché la ripresa in questo momento di un eventuale contagio credo che sarebbe una cosa drammatica e sarebbe assolutamente inaccettabile. Fontana ha risposto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che dice Fontana fa parte di questa cabina di regia per dare un contributo, dia lì il suo contributo. Ci dia i suoi contributi lì. È inutile ora fare un dibattito nel paese o sui mezzi di informazione dando poi informazioni che possono non essere in linea con i provvedimenti. Siccome c'è la necessità, io penso che questa responsabilità la sentiamo tutti, cioè di classificare il rischio di ogni lavoratore, e ogni comparto ha una classificazione di rischio. Poi alla Lombardia in realtà oggi si sono allineate altre regioni, tutte governate dal centrodestra, cioè Veneto, Piemonte e Sicilia. Zaia, presidente del Veneto, ha detto se ci sono i presupposti di natura sanitaria del mondo scientifico immagino di poter riaprire tutto anche prima. Cirio, presidente della regione Piemonte, ha detto che aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada è l'errore più grande che si possa fare, e il presidente della regione Sicilia, Musumeci, ha detto noi non abbiamo, ha detto in sintesi, gli stessi problemi sanitari della Lombardia, non vediamo perché dobbiamo andare oltre il 3 maggio. Quindi Alberto, intanto sono preoccupati i sindacati che chiedono un incontro col governo per le misure di sicurezza, per quello che potrebbe avvenire nelle aziende. Però diciamo c'è, dicevamo già ieri, un po' un ordine sparso, sarebbe necessario che ci fosse una centralizzazione delle decisioni. È anche vero che però altre regioni rispetto alla Lombardia o al Piemonte hanno situazioni differenti, e si rischia un po' il caos in questo momento, anche perché siamo pronti poi tra l'altro davvero a una ripartenza con tutte le misure di sicurezza. Alberto. Siamo in una fase dove servono certezze, servono graduazioni sia di tempi per la fase 2, sia di modi. Quello che si nota è un vuoto di leadership centrale, diciamo la verità, perché nel momento in cui ci apprestiamo ad uscire da questa immane tragedia si ripropongono le stesse fughe, lo stesso free riding che c'è stato all'inizio di questa tragedia, dove palesemente c'era una confusione di leadership tra livello centrale e istituzioni locali, dove ognuno andava per sé, e questo ha creato anche qualche problema poi nell'innescare effettivamente la risposta virtuosa che poi c'è stata dopo un po' di tempo, ma probabilmente se fosse avvenuta prima, detto con il segno di poi, naturalmente che è comodo, avrebbe portato a ulteriori risultati positivi. Sicuramente questo è un tema che va gestito in modo omogeneo, sulla base di una tempistica sicura da comunicare anche al paese, perché la cosa più importante è che effettivamente le persone chiuse a casa non ce la fanno più, le imprese chiuse non ce la fanno più a maggior ragione, si sta creando una situazione di disagio sociale pesante e pervasivo e molto pericoloso, anche perché se non governato, se non gestito, se non accompagnato da messaggi che possano dare anche il senso effettivo del sacrificio che tutti noi stiamo facendo, questa cosa può portare anche a pericolosi contraccolpi sociali. La procedura, peraltro, è scritta ed è definita. Sul tema dell'apertura delle attività produttive decide il governo centrale. Il contributo che possono dare le regioni formalmente è di presentare bozze di idee da far confluire in un DPCM, che per l'appunto è un provvedimento della Presidenza del Consiglio. Su questo tema non sono. Ma infatti Fontana ha detto, per carità, la riapertura delle attività produttive spetta al governo, non sono io a dover decidere, però questa è la richiesta della Lombardia, no? E delle altre regioni. Infatti, insomma, esatto, siamo in una fase di pressione istituzionale, che però non volermene, non me ne voglia chi ascolta, ma anche maliziosamente camuffata da posizione politica, perché mi sembra evidente che ci siano alcune regioni, soprattutto la Lombardia, che sta un po' facendo da laboratorio per la gestione della crisi dalla parte dell'opposizione. Ma infatti Alberto qui so appunto che cosa vuoi dire, perché diciamo che dopo questo annuncio di Fontana già da ieri c'è chi pensa che dietro questa accelerazione da parte di Fontana e della Lombardia verso la fase 2 ci sia la nuova strategia comunicativa di Salvini, ci sia Salvini, leader della Lega, no? Beh, insomma, anche se Fontana smentisce comunque. Naturalmente, però è un 1 più 1 facile da fare, anche se ha un ulteriore corollario, che per la verità è differente la modalità con cui si presentano Fontana e Zaia, per esempio, su questo stesso tema, anche perché vengono da risultati completamente differenti, perché sostanzialmente il Veneto, pur avendo una fase iniziale di rush dell'epidemia simile, ha gestito poi la cosa in modo completamente diverso, utilizzando maggiormente i presidi territoriali, i tamponi, e alla fine ha avuto risultati migliori. Un buon contenimento. E adesso, forte di questo, si presenta anche con un molto più dialogante anche rispetto al governo centrale, rispetto alla muscolarità che invece viene esibita in Lombardia. A questo proposito, Alberto, ti faccio sentire prima Zaia, appunto il presidente della Regione Veneto, e poi Buffagni, sempre il viceministro dello sviluppo economico, che parla di una Lombardia, dice un modello Lombardia fallito, mentre quello del Veneto, che pure è governato dalla Lega, da Zaia, insomma è andato bene. Sentiamo. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Guardate che tutte le esperienze, Wuhan compreso, alla fine hanno deciso di convivere e di aprire, perché oltre un certo limite poi non diventa più sostenibile. Sempre fatto salvo l'indicazione del mondo scientifico. Questo detto Zaia, sentiamo Buffagni sul modello Lombardia e modello Veneto. Il modello tanto decantato della Lombardia evidentemente ha fallito su tante cose, ma non è questo il momento per discuterne. Il Veneto e l'Emilia Romagna, il Veneto governa la Lega, in Veneto, lo diciamo a Salvini, governa la Lega, sono stati meno morti e la gestione sul territorio delle dinamiche sanitarie hanno agevolato, al posto di avere un sistema ospedale centrico. In Lombardia c'è stato un ospedale, un pronto soccorso che è stato chiuso e poi riaperto, che evidentemente è diventato un centro di contagio che ha ampliato il problema, e questo è stato una cosa che ha creato morti. Ecco, a proposito, no, della polemica politica e del rapporto tra governo e regioni, questa è la posizione, dice Buffagni, sono tutte e due governate dalla Lega, però una è andata in un modo dal punto di vista di Buffagni, cioè la Lombardia, e una in un altro, il Veneto, come dicevi Alberto. Esattamente, ha più o meno detto le cose che stavo sostenendo. Però è chiaro che bisogna partire da un presupposto, che effettivamente bisogna tornare a una regolarità, a una nuova quotidianità che sia in grado anche di convivere per una certa fase con il virus. Aveva ragione Ilaria Capo a dire è un errore inseguirlo, cioè avere atteggiamenti che alla fine ci portano a una quarantena perpetua di fatto, ma non è questo l'atteggiamento più corretto, credo. E invece bisogna esercitare il massimo della fantasia, dell'intelligenza, delle capacità organizzative per gestire una nuova normalità. È chiaro che è un tema molto complesso e probabilmente ha dei costi che ancora non siamo nemmeno in grado di prevedere, perché proviamo a immaginare la sincronizzazione dei nuovi trasporti pubblici, laddove gli autobus potranno contenere sì e no metà dei posti a sedere, perché bisognerà mantenere il distanziamento, quindi bisognerà far proliferare le corse in un modo pazzesco, bisognerà probabilmente fare nuovi investimenti su quel versante lì, modificare gli orari di apertura degli uffici pubblici e quelli privati, cosa è l'ipotesi, no? La sì, di Fontana. Di Nicolao. E anche Fontana che ha proposto di scaglionare i giorni di lavoro su 7 giorni anziché su 5, anche qui... esattamente, in che questo modo. Perché probabilmente riesce a diminuire le varie giornaliere spalmandole su più giorni, ma poi al di là di questo devi modificare i sincronismi sociali, cioè devi trovare dei momenti in cui vengono consegnate le merci, delle fasce orarie, dei momenti in cui partono i pendolari, per così dire, che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, che non si devono incrociare con quelli che lavorano nell'industria privata. Un'organizzazione estremamente complessa. È una cosa complessa. Molto complicata, naturalmente, ma questo va fatto, perché questo comunque darà l'idea di una fase nuova, darà l'idea dell'avvio di una nuova fase molto complicata, ma che darà il ritmo della nostra nuova normalità. Però su questo non si vede ancora nulla, si vedono insediamenti di task force nazionali, di task force regionali, di task force di diverse emanazioni amministrative che magari collidono e non hanno lo stesso tipo di orizzonte e lo stesso tipo di visione. Quello che manca è la decisione politica, perché decidere da politico non è la stessa cosa che decidere da epidemiologo, evidentemente. Chiaro. E c'è un ascoltatore fra i tanti, dice: sono Massimo da Monza e volevo dire che io lavoro nella automotive, quindi insomma nell'industria automobilistica e nel componentistica, e non so perché, ma ho ripreso il mio lavoro lunedì scorso, cioè l'altro ieri. E se non lo sa Massimo, non so neanch'io. Perché insomma la procedura che prevede anche, sempre di PCM, una serie di deroghe che possono accordare. Evidentemente ci sarà stato. Quando le imprese fanno gli accordi sindacali e garantiscono di avere i presidi sanitari individuali e collettivi. C'è stato un grande afflusso di domande poi nelle varie prefetture, ne sono state evase la gran parte, e mi pare che di quelle evase solo il 5% è stato considerato non idoneo, quindi poco. Una cosa bisogna dire a chi ci ascolta, che l'Istat ha aggiornato i dati dell'effettiva chiusura. Effettivamente, per rispondere anche all'ascoltatore, sì, le attività formalmente sospese riguardano 2,1 milioni di imprese, più o meno il 48% del totale. Quindi la metà, le altre evidentemente esatto, 7,1 milioni di addetti. Chiaro. Alberto, a proposito di tutto quello che dicevamo, poi parleremo tra pochissimo di un vaccino che è prodotto, messo a punto in un laboratorio d'eccellenza a Pomezia, vicino Roma, ne parleremo col direttore scientifico, e che sarà testato a fine aprile su 550 volontari in Inghilterra. E poi, sempre relativamente alla fase 2, a quello che succederà all'organizzazione poi di una vita che non può essere normale subito dopo, parleremo anche delle applicazioni di tracciamento e con le indicazioni della Commissione Europea. Ecco, volevo già avvisarti, se ascolterai effetto nota, immagino di sì, hai già delle anticipazioni, insomma. Va bene? Molto bene, perfetto. Grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buon lavoro e un abbraccio. Grazie a voi, a presto. E buon proseguimento. Ciao Alberto. Quindi avete sentito l'anticipazione che vi ho dato. Adesso ci prendiamo una pausa di riflessione, come sempre, e di respiro. E dice questo ascoltatore, che cosa chiede? Per per poi, quando ha servito tutto, questo sarà il caso di chiedere i danni alla Cina. Vabbè, poi ci si penserà, già adesso sta muovendo una certa guerra mediatica Trump. Ho visto che anche Macron poco fa, presidente francese, ha detto in Cina devono essere successe delle cose che non sappiamo, insomma si comincia adesso, visto anche che intelligence americana sta indagando, si è escluso finora che ci fosse qualcosa, diciamo, di losco, di poco chiaro, adesso cominciano a emergere dei sospetti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, siete a casa, allora siete nel posto giusto, al momento giusto. Qualcuno naturalmente ha degli orari particolari di lavoro e quindi magari sta ascoltando dal lavoro. L'importante è che siate qui insieme a me, Roberta Giordano, ad ascoltare questo quadro che compongo ogni sera durante il giorno, raccogliendo le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire alcuni temi in particolare con gli ospiti. Abbiamo appena parlato di questa polemica, o comunque di questa pressione che si sta formando, si sta creando sul governo da parte di alcune regioni che hanno chiesto di aprire gradualmente in modo anticipato già dal 4 maggio. Ieri già la Lombardia, oggi è tornato a parlare Fontana, l'abbiamo sentito, e poi anche si sono associate Veneto, la Sicilia e il Piemonte, dicendo che insomma effettivamente qui bisogna cercare di ripartire, con tutti i problemi naturalmente organizzativi e di sicurezza, cioè l'equilibrio tra il garantire la possibilità di lavorare e dall'altra però anche la sicurezza, la salute delle persone. C'era anche una dichiarazione di Di Maio di poco fa che dice: tutti vogliamo riavviarci la riapertura, ma deve essere intelligente, c'è la responsabilità per il lavoro, ma la responsabilità più grande è per la vita delle persone, non dobbiamo abbassare la guardia, rischiamo di sprecare il lavoro fatto, ha detto Di Maio. Adesso parliamo, appunto, ve l'avevo anticipato, di vaccino. Il problema è avere il vaccino, che in questo momento credo sia la prima preoccupazione, e avere un vaccino efficace, seconda preoccupazione. Terza preoccupazione è avere una quantità di dosi tali da proteggere la popolazione. Quindi certamente quando le avremo dovremo trovare un modo per garantirlo a tutte le persone e fare in modo che si crei quella immunità di gregge, che è l'unico strumento che poi ci consentirà di dire affrontiamo questa epidemia e la conteniamo in maniera sistematica in tutte le latitudini e per tutte le classi di età. Questo ha detto sempre il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, l'avete sentito anche all'inizio, qua parlava di vaccino, perché al di là della fase 2, della successiva fase 3, delle progressive auspicate riaperture, delle relative misure di sicurezza, ciò che tutto il mondo, senza esclusione di nessun angolo della Terra, sta aspettando con grande ansia, con trepidante speranza, è appunto il vaccino, che è l'unica vera arma per sconfiggere questo maledetto coronavirus che decine di migliaia di vittime sta facendo appunto ovunque e che sta tenendo in ostaggio il mondo intero. Quindi se vogliamo tornare alla normalità, ha detto anche Brusaferro, diciamo l'arma appunto è il vaccino. Ci sono vari laboratori nel globo terracqueo che stanno lavorando alla messa a punto di vaccini, ma quello che ci può rendere orgogliosi come italiani, speranzosi anche mi auguro, è che l'italiana Advent IRBM di Pomezia, vicino Roma, in partnership con lo Jenner Institute della Oxford University, ha annunciato che a fine aprile inizieranno i test accelerati sugli esseri umani del suo vaccino, di questo laboratorio di eccellenza di Pomezia, di cui è direttore scientifico Carlo Toniatti, che saluto. Professor Toniatti, buonasera. Buonasera. Ricordo tra l'altro che è una società specializzata, la IRBM Science Park di Pomezia, specializzata nella ricerca di farmaci, nei cui laboratori di chimica e biologia è stato scoperto tra l'altro il vaccino anti-Ebola, se non sbaglio, professor Toniatti. Sì, una piccola precisazione, non sono professore, perché io ho tutta la mia carriera nell'industria farmaceutica. Glielo dico, dottore, lo chiamo dottor Toniatti. Mi chiami come vuole, ma l'ambiente accademico è molto sensibile a queste cose, quindi insomma, non comunque voglio prendermi i titoli che non ho. Però lei è molto modesto, ma devo dire che è un grandissimo ricercatore, medico, biologo, è uno di quei cervelli di ritorno, perché era andato a Houston a lavorare, poi per amore dell'Italia è nostro, insomma è tornato, e grazie per questo, dottor Toniatti. Quindi lei è direttore scientifico appunto della IRBM, che ha messo a punto un vaccino che poi in parte partnership con lo Yenner Institute della Oxford University sarà testato a fine aprile su 500. Sì, esce entro la fine di aprile, ma io non glielo posso dire con sicurezza, però diciamo che per maggio dovrebbe partire la sperimentazione. Sarà una sperimentazione anche molto accelerata, perché ci sono, come dire, ci si stanno, non solo a noi ovviamente, stanno veramente spianando un'autostrada per testare i vari tipi di vaccino che si stanno, come lei diceva giustamente, nel mondo. Quindi è una sperimentazione clinica molto accelerata, molto veloce, che potrebbe durare pochi mesi, speriamo, invece di durare anni come sarebbe normalmente. Veramente qua è il caso di dire, incrociamo le dita tutti quanti, perché insomma, è importante. Certo, dottor Toniate. Senta, ma quindi l'avete messo a punto nei laboratori appunto dell'IRBM, ma anche abbastanza velocemente, al di là poi dell'accelerazione dei test, ma anche come messa a punto, mi sembra, no? Guardi, è una bella collaborazione che c'è con i colleghi e amici di Oxford. Quindi ognuno fa quello che sa fare meglio. Loro hanno fatto velocemente quello che sanno fare meglio, noi abbiamo fatto velocemente quello di cui siamo capaci. Le cose sono andate rapidamente. Chiaramente, come dire, c'era sicuramente la necessità di essere rapidi, però noi, insomma, come dire, abbiamo fatto tutto al meglio. A questo punto si tratterà di vedere la risposta nell'uomo, perché nulla è garantito. Nulla a è garantito. Piaciuto, mi è piaciuto il fatto che lei abbia sottolineato che ce ne sono vari, come ha detto lei, sul globo terracqueo. Io sono sincero, poi veramente sono sincero con lei. Io faccio il tifo per tutti, insomma, per me, per noi, per gli RBM è importante che uno di questi vaccini funzioni. Se poi sia il nostro saremmo contenti. Ma se un altro, se magari la cosa migliore sarà combinare due tipi di vaccino, ma insomma, ma ci mancherebbe, insomma, siamo tutti, veniamo tutti dalla stessa parte, certamente. Giustamente oggi anche il ministro della Salute e Speranza al G7 sulla salute ha detto che bisogna che tutti i paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l'emergenza e uscirne tutti insieme, insomma, così anche il ministro degli Esteri Di Maio, dobbiamo lavorare tutti in solidarietà, perché è un problema che riguarda tutti, e anche lei naturalmente ha dimostrato questa fratellanza mondiale, no? Su questa emergenza che non lascia fuori nessuno, purtroppo. Guardi, se posso dire una cosa, per esempio nel nostro caso la possibilità della sperimentazione clinica molto accelerata è facilitata dal fatto che questo tipo di tecnologia che noi stiamo usando adesso è già stato utilizzato in passato. Lei ha citato Ebola, ma è stato usato anche per altri tipi di studi che magari non sono stati ancora approvati, vaccini, ma ci sono diversi vaccini di questo tipo in fase 1 o in fase 2 di sperimentazione clinica. Quindi non ci sono molti dubbi sul fatto che questo tipo di vaccino non crei problemi all'uomo, cioè non sia tossico. Questo ci permette di saltare molti passaggi e di andare direttamente a vedere l'efficacia, e per come è stato disegnato la sperimentazione clinica si riuscirà a sapere in pochi mesi, e poi bisognerà accettare il risultato. Dobbiamo vedere fondamentalmente quanto è potente questo vaccino nello stimolare una risposta immunitaria contro il virus, e soprattutto per quanto tempo dura questo tipo di risposta, quindi se ci sarà bisogno di una vaccinazione all'anno, come è possibile, se non probabile, o qualcosa di diverso. Insomma, bisogna aspettare i risultati nell'uomo. Quindi la cosa molto positiva, diceva, che almeno non è tossico, non ci sono effetti collaterali, bisogna vedere l'efficacia contro il coronavirus. Sì. Per quello che possiamo dire, non ci aspettiamo di vedere effetti negativi, dobbiamo però misurare gli effetti positivi. Chiaro. E dice questo ascoltatore: Patrizio, parliamo di un virus che muta, la fattispecie di Wuhan non è stata riscontrata ad esempio in Lombardia, quindi non riesco a comprendere l'efficacia di un vaccino quando ne sappiamo ancora così poco. No, non è proprio così. Il virus non muta, i coronavirus in genere non mutano tantissimo. L'ascoltatore ha perfettamente ragione quando dice un punto che per noi scienziati è di base. Non ne sappiamo ancora molto, però da quello che sappiamo, da tutti i vari virus che sono stati isolati nel mondo, ci sono poche mutazioni, e le mutazioni non avvengono in quella regione che noi andiamo a, che noi riteniamo la regione bersaglio per il nostro vaccino. Il resto può anche mutare, ma l'importante è che la regione che noi identifichiamo contro la quale bisogna sviluppare una risposta immunitaria non è risultata ancora mutata. Quindi ci sono speranze che il vaccino in realtà funzioni, proprio chiaro, perché non muta moltissimo nella regione bersaglio. Dottor Toniatti, un'ultima cosa. Quindi ha detto sarà sperimentato tra fine aprile e maggio su questi 550 volontari. Qualcuno chiede perché in Inghilterra, molto brevemente? Per motivi pratici, insomma, devo dire, è una domanda che hanno fatto in molti, devo dirtelo, e direi che, come dire, non è il momento. Una questione logistica, insomma. Chiaro. Esatto, dire, Italia verso Inghilterra, veramente siamo tutti sulla stessa barca. Se poi dovesse funzionare, come speriamo, quanti mesi ha detto che ci vorranno per capirlo? Guardi, per capirlo non ci vorrà moltissimo, sono proprio brutalmente sincero con lei, se non funziona purtroppo lo capiamo abbastanza rapidamente. Se funziona dobbiamo capire quanto, poi il problema sarà quello che è stato detto anche all'inizio del suo intervento adesso, cioè noi dobbiamo produrre centinaia di milioni. Siamo 7 miliardi di popolazione mondiale, quindi ce ne vorrà tantissimo, dovrà essere finanziato da qualcuno e poi prodotto in grandissime quantità. Prodotto, la produzione è un altro problema, ci vorrebbe veramente un'altra trasmissione, però è un bel problema da avere, ecco, diciamo così, se abbiamo una cosa che funziona poi abbiamo un bel problema da risolvere. Senta, a proposito di questo problema, dottor Toniatti, io quindi le do appuntamento appena ci saranno dei riscontri, speriamo positivi, ci risentiamo, va bene, qui effetto notte, assolutamente, 24. Assolutamente. Grazie mille, grazie, complimenti e un abbraccio, caro Toniatti. Grazie a lei. Grazie. Viabilità. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, vedo molti vostri messaggi di interesse giustamente su questo vaccino di cui abbiamo parlato e sul quale poi torneremo quando, appunto, dicevo, dottor Toniatti, ci saranno dei primi riscontri. Adesso però andiamo su un altro aspetto molto importante per una fase prossima di riapertura. Tra le misure a cui si sta pensando, non solo in Italia, per le progressive riaperture, appunto, e la circolazione di nuovo delle persone nelle città, ci sono le app, le applicazioni tecnologiche, in particolare per il tracciamento della diffusione del virus. Dalla task force voluta dal governo italiano per mettere a punto queste app, fa parte di questa task force anche l'autorità garante della privacy, che ovviamente si deve occupare che i dati sensibili delle persone non siano messi così alla mercé di tutti. E infatti è stato ospite qui effetto notte nei giorni scorsi il segretario generale dell'autorità garante della privacy. Anche l'Unione Europea sta studiando l'argomento per dare delle indicazioni univoche ai vari stati. Oggi è emerso che uno dei principali cardini pubblicati dalla Commissione Europea ed elaborato in collaborazione con i vari governi per lo sviluppo di queste app di tracciamento è che una stima accurata della vicinanza tra dispositivi mobili tramite segnali Bluetooth deve essere senza l'uso della geolocalizzazione. L'installazione delle app deve essere volontaria, quindi praticamente, appunto, bisogna poter monitorare gli spostamenti dei cittadini, però nell'anonimato, niente geolocalizzazione, sia il Bluetooth e solo volontarietà. Allora, su questo coinvolgo subito il professor Gabriele Fagioli, che è presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security e Data Protection del Politecnico di Milano. Professor Fagioli, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie, buonasera. Ecco, a proposito quindi di queste app, abbiamo capito, è possibile davvero fare tracciamenti, seguire le persone contagiate, eccetera, senza la geolocalizzazione? Allora, attenzione a comprendere bene lo spirito di queste app, che non è quello di tracciare i movimenti ma di scoprire eventi. Cioè, in altre parole, quello che serve capire è la mappa dei contatti, non tanto le persone dove vanno. E questo nel rispetto di una serie di principi che la Commissione europea, il Garante europeo e le varie autorità nazionali hanno ben presente anche per motivi normativi e di protezione dei dati personali delle persone. Quindi in pratica non è tanto la richiesta, e le app non avrebbero lo scopo di monitorare lo spostamento delle persone, ma di comprendere le persone, degli individui con cui sono venuti a contatto, e quando si scoprisse che c'è una persona affetta da virus si andrebbe a vedere con chi è entrata in contatto quella persona. Cosa, professore, applicazione che mi pare simile sia stata usata sia in Cina, forse in modo più aggressivo, e anche in Corea del Sud, no? Per risalire a tutti i contatti che una persona contagiata aveva avuto. Beh, certo, ci sono paesi dove l'utilizzo di tecnologie in modo molto invasivo, sia normativamente che per motivi di politica interna, è considerato molto più accettabile che da noi, e quindi naturalmente sono paesi che hanno fatto delle scelte che sono in linea con le proprie scelte politiche, diciamo di filosofia giuridica. In Europa abbiamo una filosofia giuridica e un impianto normativo sensibilmente diverso da questo punto di vista, infatti c'è una richiesta molto forte di tutela delle persone da un punto di vista proprio della loro privacy. Quindi tutto questo è possibile, queste applicazioni, senza dover sapere dove è una persona in quel momento, dove è stata, semplicemente, quindi come si può spiegare, si coglie la vicinanza con un'altra persona, con quali persone, con quali, non so, si scaricherà sul cellulare, quindi si capirà con quale cellulare era vicino in quel momento, professor Fagioli? Sì, la tecnologia Bluetooth è proprio quella che viene considerata migliore perché ha un raggio d'azione molto limitata, però contemporaneamente permette di tracciare la vicinanza tra le persone, il contact tracing esattamente. Nel momento in cui si venisse a sapere che Gabriele Fagioli è affetto da virus, si potrebbe, questo attraverso le autorità sanitarie, immagino poi ogni paese legiferà in tal senso, andare a vedere tutti gli eventi dei contatti di questa persona. A quel punto si andrebbe poi ad avvisare le persone nelle modalità che le autorità sanitarie andrebbero a scegliere. Tenete conto che le tecnologie che oggi utilizziamo fanno tutta una serie di azioni di monitoraggio, di raccolta di informazioni, di tracciamento, di raccolta di una serie di eventi. Basti pensare a quelli che sono gli obblighi di data retention da parte delle sale di telecomunicazioni, però sono tutti sottoposti a rigido impianto normativo, e quindi anche sotto questo profilo ci dovrà essere tutto un impianto che proteggerà i cittadini da usi indebiti, da mantenimenti di dati oltre i tempi necessari e quant'altro. E tra l'altro sarà volontario, questo stabilisce la Commissione europea. Quindi insomma, professor Fagioli, quando arriverà finalmente queste applicazioni, quando la task force avrà deciso, poi magari ci ritroviamo così ci spiega ancora più nel dettaglio il funzionamento? Molto volentieri, senz'altro, grazie. Grazie professor Gabriele Fagioli. Arrivederci. Grazie, buona serata. A tutti. E per chiudere parliamo della morte di Luis Sepúlveda, scrittore, sceneggiatore, esule politico, fu imprigionato e torturato durante la terribile e feroce dittatura in Cile, attivista, ecologista, un instancabile viaggiatore e narratore, e se l'è portato via a 70 anni il coronavirus. È morto a Oviedo in Spagna, era ricoverato da febbraio in ospedale ed era atteso tra l'altro in Italia per parlare di coraggio al festival Più Libri, che poi naturalmente per tutte queste cose che sono successe è saltato. Ne voglio parlare con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao, ciao a tutti. Che ha la sua rubrica Il cacciatore di libri, sabato alle 6.30 e alle 15.30. Alessandra, senti, tu lo hai anche intervistato tra l'altro, Sepúlveda. Sì, l'ho intervistato diverse volte quando veniva in Italia. Per lui l'Italia era sicuramente un paese molto amato. Forse posso dire che l'hanno amato più i lettori italiani che non i lettori di altri paesi del mondo, anche per esempio della Spagna, dove lui ormai viveva da tantissimi anni. Infatti mi pare, perdonami Alessandra, mi pare che i suoi libri fossero tradotti prima in italiano, sì, e poi in spagnolo, no? Esattamente, la sua traduttrice Elida Carmigliani li traduce proprio direttamente da manoscritto, quindi venivano prima pubblicati in Italia e poi venivano pubblicati in spagnolo, quindi questo proprio a testimoniare il fortissimo legame fra Luis Sepúlveda e l'Italia e i lettori italiani che lo hanno amato, posso dire, fin dal primo romanzo, il famosissimo Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, stiamo parlando del 1989, poi vabbè, il best thriller che tutti conoscono, storia di una gabbianelle del gatto che le insegnò a volare e che ha creato proprio un nuovo genere, quasi possiamo dire, cioè di favole per bambini che però avevano anche una seconda lettura per gli adulti. È diventato anche un film d'animazione, tra l'altro. Riusciamo a sentire questo pezzo di intervista di Alessandra a Sepulveda? Sentiamolo. Non è stato un nostalgico della cucina cilena, neanche un nostalgico del paese, no? Ma mi mancava sì questa forma dell'essere cileno, no? Profondamente sociale, comunicativo, divertente. Alessandra, è che abbiamo fatto tardi, diciamo, tra parlare di vaccino e di app, eccetera, e di politica. Comunque, insomma, è bello, parlava in italiano, fra l'altro, Sepulveda, no? Nelle tue interviste. Parlava correttamente in italiano, no? Come parlava tante altre lingue. Se dovessi dire proprio la sua cifra, la cosa che più lo contraddistingueva? La sua idea di letteratura, cioè dar voce a chi non ha voce. Secondo me questa è la frase che lo identifica di più. Grazie Alessandra Tedesco. Grazie di questo ricordo. Ciao Alessandra. Sentiamo le 22.